2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Benvenuti a 2024, questa è la puntata del 23 novembre 2013. Benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ogni settimana cerchiamo di capire assieme ai nostri esperti come la tecnologia già ci cambia la vita, oppure come la tecnologia potrebbe o sicuramente ci cambierà la vita nei prossimi anni. Potete seguirci anche via Twitter o Facebook, quindi potete animare la nostra pagina Facebook sulla quale cerchiamo di rispondere. Parleremo tra poco di un progetto, di una idea, diciamo così, di una proposta per contribuire alla diffusione della banda larga in Italia, soprattutto della fibra ottica. Parliamo di automobili perché la tecnologia sta entrando nelle automobili, parlo della tecnologia digitale, quindi l'ICT che entra prepotentemente nelle automobili ad una velocità che sta aumentando. Allora, già oggi ci sono sistemi molto evoluti che fanno ampio uso di tecnologie molto sofisticate. Pensate a tutti gli esempi che vanno sotto il cappello di un acronimo che si dice ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, cioè sistemi avanzati di assistenza al pilota. Ad esempio il cruise control, quindi ad esempio la velocità che noi impostiamo mentre siamo tipicamente in autostrada, è un primo esempio. Oggi ci sono anche cruise control autoadattivi, quindi se incontriamo un'automobile che va più lenta, la macchina rallenta o addirittura frena se questa auto rallenta in modo molto veloce. Poi ci sono, che ne so, sistemi che parcheggiano l'auto in modo automatico, sistemi di frenata ad emergenza se incontriamo un pedone mentre siamo in città, insomma tante cose di questo genere, luci automatiche, sensori per sapere quando comincia a piovere, che fanno partire gli spazzavetri. Insomma, questi sono esempi più o meno evoluti, in alcuni casi stiamo parlando di tecnologie già sofisticate. Ecco, tutto ciò evolverà nei prossimi anni fino ad arrivare all'auto che guida da sola. Se ne parla molto, se ne continua a parlare moltissimo, e quasi tutte le case automobilistiche stanno sperimentando. Ricordo che a Parma c'è il VisLab, il laboratorio di visione dell'Università di Parma, che ha tecnologie all'avanguardia in questo settore. Facciamo spesso riferimento a cose che succedono dall'altra parte dell'oceano, invece l'automobile che questa estate ha fatto un primo test pubblico partendo dall'Università di Parma, arrivando fino al centro della città, ha guidato senza pilota, da sola, quindi facendo le rotonde, dando le precedenze, eccetera eccetera. Allora, prima però di arrivare a questa evoluzione molto, molto sofisticata, cioè l'auto che guida da sola, e poi bisognerà anche aggiornare le leggi, perché questo non è un particolare irrilevante. Allora, nel frattempo c'è un altro trend che vedremo presto nei veicoli su larga scala, qualcosa già si sta vedendo e ne abbiamo parlato anche lo scorso anno quando siamo andati al Consumer Electronic Show di Las Vegas, dove torneremo quest'anno all'inizio dell'anno, dove il settore automobilistico è presente in maniera massiccia. Stiamo parlando della cosiddetta auto connessa, questo è un concetto di cui abbiamo parlato più volte nel 2024, la connected car, quindi un'auto che è connessa ad internet e scambia informazioni con la rete internet, prende informazioni dalla rete internet, ma restituisce anche informazioni alla rete. C'è un tema di cui si sta parlando in rete, soprattutto in questi giorni, legato proprio a questo trend, cioè dell'auto che si connette ad internet, che è il controllo, ma non un controllo inteso come fisico dell'auto, un controllo digitale. Allora, il dibattito è questo: se l'auto è connessa alla rete internet, ci può essere qualcuno, qualcosa, qualche azienda, qualche computer sofisticato che ci controlla, che comincia a sapere dove noi andiamo, che cosa facciamo, le nostre abitudini di guida, eccetera eccetera. Se questo avviene in maniera autonoma, insomma, poco male. Questo potrebbe far sì che le nostre città diventino più intelligenti, quindi ad esempio la gestione del traffico diventi molto più precisa. Un altro conto invece se questo controllo è molto più preciso, molto più particolare. Allora, un dibattito che è in corso, appunto, dicevo, in rete, ma che si è animato in questi giorni soprattutto perché si è parlato della Renault Zoe. Un'auto elettrica le cui batterie vengono noleggiate dal proprietario dell'auto. Succede spesso così, si compra l'auto, invece le batterie, che hanno una vita molto particolare, vengono tipicamente noleggiate. Questo vale anche per altre case automobilistiche. Allora, in questo caso la Renault sarebbe in grado di impedire la ricarica se non si paga la rata di noleggio. O addirittura cose, cioè chi ha ipotizzato cose ancora più evolute, tipo fermare l'auto in altri casi. Allora, tutto ciò avviene attraverso una cosa molto semplice, cioè i famosi DRM. Ne abbiamo parlato tante volte quando parlavamo di musica. E il DRM, cioè il Digital Rights Management, è un sistema, un software di gestione dei diritti digitali. Tipicamente si parla di questo quando, che ne so, noleggiamo un film online e ci viene detto: guarda, lo puoi vedere e poi lo puoi rivedere quante volte vuoi entro 48 ore. Il sistema che decide che sono passate 48 ore, quindi poi tu non puoi più vedere un file che fisicamente hai perché lo hai scaricato, si chiama appunto DRM. In questo caso, se il DRM dice: ah, non hai pagato la rata di noleggio della batteria, ti impedisco di ricaricare la batteria. Beh, su questo potete immaginare, ci sono tanti punti di vista e ci sono anche alcuni allarmi, ma non sul caso specifico, in generale su un trend che vedrà sempre più le auto connesse, quindi le auto sempre più anche controllabili da remoto. Ma io sono abbastanza certo che, ad esempio, questi servizi potranno essere utilizzati, che ne so, con le assicurazioni. Non paghi l'assicurazione e io ti blocco l'automobile. Non paghi una multa e io ti blocco l'automobile. Tutto ciò lo vedremo sicuramente, poi bisognerà vedere anche che cosa le leggi permetteranno di fare, ma sicuramente è una possibilità tecnologica tutt'altro che campata in aria. Abbiamo naturalmente altre notizie. Ci sono, cioè, la notizia sicuramente della settimana è che si è chiusa la seconda puntata del più ricco scontro legale nella storia della Silicon Valley, e secondo la giuria del tribunale di San Jose in California, ne abbiamo parlato tantissimo nell'agosto 2012. Allora, c'è un ulteriore capitolo. Allora, secondo questa giuria, una nuova giuria del tribunale di San Jose in California, Samsung dovrà pagare ad Apple altri 290 milioni di dollari. Il conto totale del risarcimento per questo processo, che è partito lo scorso anno, sale così a 930 milioni che Samsung deve ad Apple. Poi vedremo se Samsung farà ricorso, ma questo per il momento è il conto. Allora, tutto nasce lo scorso anno quando la Apple aveva portato i coreani davanti al giudice accusandoli di avere copiato alcuni dei propri brevetti, alcuni delle caratteristiche dei propri prodotti, quindi tipicamente iPhone e iPad. La precedente giuria aveva fissato ad oltre un miliardo la cifra che Samsung avrebbe dovuto pagare, ma il giudice Liu Si-ko, che è una signora piuttosto risoluta, e poi magari ricordo che cosa aveva detto l'anno scorso agli avvocati. Allora, il giudice aveva imposto un nuovo processo e per via di alcuni errori di calcolo aveva fatto anche un bello sconto, aveva detto: no, il risarcimento scende di 450 milioni di dollari, quindi rimanevano circa 600 milioni da pagare, ai quali vanno aggiunti questi 290 che sono stati stabiliti oggi e altri 40 che erano stati decisi dal giudice di aprile. Quindi totale, torniamo appunto a questa cifra, 930 milioni di dollari. Adesso, come dicevo, Samsung dovrà decidere se fare ricorso oppure concentrarsi su un nuovo processo, perché pensate, c'è un altro processo che inizierà a marzo, sempre San Jose, sempre con il giudice Liu Si-ko, con le medesime accuse. Apple dice che anche in alcuni nuovi prodotti, comunque prodotti più recenti come ad esempio il Galaxy S3, sarebbero state copiate le tecnologie della mela morsicata, e si va avanti da mesi, mesi e mesi. Certo, la giustizia americana è sicuramente più veloce, ma comunque stiamo parlando di una cosa che è partita lo scorso anno, che ha ancora degli strascichi che vedremo nel prossimo anno, perché se poi su questo processo ci sarà il ricorso, si andrà in parallelo, quindi vecchio processo e nuovo processo. Adesso abbiamo, anzi, prima vi dico che cosa ha detto l'anno scorso il giudice Lucy Coe. Immaginate se succede una cosa in un tribunale italiano, chissà che polemiche accadono. La giudice, vedendosi portare un tomo di atti e di prove da uno degli avvocati, ha guardato l'avvocato, il team degli avvocati, ha detto: ma voi avete fumato del crack, sono un po' troppi questi documenti, e si è andati avanti. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva dall'Europa, da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha approvato il finanziamento e le linee guida per la gestione dei due programmi europei di navigazione satellitare, Galileo e Degnos, per il periodo 2014-2020. Il bilancio complessivo è di 7 miliardi di euro per il completamento delle infrastrutture, le attività di mantenimento dei sistemi, lo sviluppo di elementi essenziali come ad esempio i ricevitori compatibili con Galileo. Questo non vuol dire che l'Europa costruirà ricevitori, ma naturalmente c'è una fase di sviluppo, di ricerca per arrivare poi al prodotto completo e finito. I primi servizi saranno operativi dal prossimo anno e raggiungeranno la piena capacità tra il 2019 e il 2020. Parliamo dei primi servizi Galileo. C'è, come avete sentito, un altro sistema satellitare europeo già operativo che si basa su 4 satelliti geostazionari e si chiama EGNOS. Galileo è un sistema invece con satelliti che orbitano attorno alla Terra, così come il GPS, mentre in questo caso si tratta di 4 satelliti geostazionari, quindi a 36.000 km di distanza dalla Terra. Questo sistema è molto evoluto, ha una precisione di circa 2 metri, viene utilizzato soprattutto per la sicurezza del traffico aereo e anche per quello marittimo. È utilizzato anche in ambito militare e in vari settori, come ad esempio quello agricolo. Da questo fine settimana è sul mercato la nuova Xbox One, la console da gioco di Microsoft, che secondo l'azienda al debutto ha già sfondato quota 1 milione di unità vendute. Prezzo fissato a 499 euro con il Kinect e con una serie di caratteristiche sicuramente molto interessanti e molto evolute. Invece, dopo il debutto negli Stati Uniti, che è già avvenuto qualche giorno fa, la prossima settimana arriva anche in Europa la PlayStation 4 di Sony. In questo caso il prezzo è di 399 euro. Ancora più basso il prezzo della Wii di Nintendo, che ha scelto invece di puntare sulla console già sul mercato. AOL ha annunciato che non svilupperà più il mitico Winamp. Molti di voi ricorderanno questo software. Qualche anno fa era il software, il lettore audio leader su PC per ascoltare musica MP3. AOL aveva acquistato nel 2002 la Nullsoft, che aveva realizzato Winamp, e c'è anche chi ha scritto che America Online, anche se oggi si dice AOL, sarebbe in trattativa con Microsoft per cedere questo software. Non si capisce che cosa se ne possa fare Microsoft di un software come Winamp, ma queste sono le voci di corridoio. Adesso abbiamo una breve pausa, ci fermiamo per un minuto, questa è Radio 24, siete all'ascolto di 2024, parleremo tra poco di una proposta che arriva dalla Toscana a proposito di fibra ottica e banda larga. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Parliamo di diffusione della banda larga. Questo è un tema estremamente importante, lo diciamo sempre da anni a 2024. Allora, questa settimana ho partecipato ad un convegno molto interessante a Brescia, vicino a Brescia, in cui si parlava di fabbrica intelligente. Quindi le aziende, e naturalmente la provincia di Brescia è una provincia ricca di aziende, di imprese, di manifattura molto, molto importante, tecnologicamente evoluta, ma sicuramente bisogna fare un passo in avanti, anche perché le aziende più tradizionali possono trarre grandi benefici dall'introduzione di elementi di intelligenza tipicamente del settore ICT. Allora, si è parlato di questo, delle opportunità, delle varie possibilità, e mi ha fatto molto piacere che all'inizio, durante il saluto iniziale, il presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, quindi di Confindustria Brescia, Marco Bonometti, abbia fatto un riferimento alla banda larga alla necessità che le aziende di tutti i tipi, e questo è importante, abbiano bisogno sempre più di infrastruttura in banda larga. E naturalmente sappiamo che la fibra ottica è e ci garantirà per il futuro una possibilità di aumentare questa banda sempre di più. Varie cose si stanno dicendo nel paese, c'è ancora il tema noto a molti, che è relativo al famoso oramai scorporo della rete Telecom. Su questo punto torneremo, se ci saranno notizie, nei prossimi mesi. È un dibattito molto molto lento. Ogni tanto il governo, in particolare il sottosegretario Catricalà, dice bisogna fare questo scorporo, lo si potrebbe fare anche tramite un provvedimento legislativo, quindi imponendolo a Telecom Italia. Ma il problema sul quale è necessario vigilare è che poi lo Stato non paghi questa infrastruttura più di quanto oggi vale. Un'infrastruttura, ricordiamo, vecchia di 40 e più anni, che ancora porta sì i doppini di rame in tutte le case, ma sulla quale bisogna fare degli interventi. Telecom Italia sta facendo tutta una serie di interventi per portare la fibra ottica fino agli armadi stradali, ma rimane questo ultimo miglio, che diventa magari mezzo miglio, che ancora soffre di un'età molto avanzata. Quindi il problema è, al di là di scorporare o non scorporare, è quanto lo Stato poi dovrà pagare. Non è lo Stato direttamente, ma la Cassa Depositi e Prestiti, ma poco non cambia per le tasche dei cittadini. Allora, visto che il dibattito nazionale è molto lento, e c'è chi dice che eventualmente, se si fa uno scorporo della rete, ci si impiegherà un anno e mezzo, due anni, bisogna far presto, perché forse alcune aziende due anni non li possono aspettare, e alcune aree del paese soffrono di banda larga che non è così tanto larga. Questo lo diciamo sempre. Una proposta interessante è arrivata da ANCI Toscana alla fine dell'estate. Vogliamo saperne di più, vogliamo capire in che cosa consiste questa proposta. Abbiamo invitato Alessandro Pesci, che è il segretario generale di ANCI Toscana. Benvenuto a 2024. Grazie a voi, buongiorno. Allora Pesci, in che cosa consiste questa proposta che voi avete lanciato? In Toscana abbiamo da molti anni una rete telematica della parte pubblica, comuni, aziende sanitarie locali, regione, camere di commercio, quindi autonomie locali e autonomie funzionali. La rete è disciplinata da una legge regionale e in qualche modo è un luogo di condivisione di politiche, scelte, strategie, eccetera. È una cosa che va avanti da molti anni, a noi sembra che sia necessario fare uno scatto in avanti. Scatto in avanti in due direzioni. La prima è quella di lavorare di più e meglio rispetto alle infrastrutture, vedere dove siamo arrivati con gli interventi pubblici e con gli interventi dei privati sostenuti da risorse pubbliche, coprire le aree che sono ancora da coprire. Dall'altra parte costruire più servizi. C'è un catalogo importante di servizi in Toscana, bisogna che la parte pubblica utilizzi i contenuti di questi cataloghi di servizi da offrire alla cittadinanza, ai cittadini, alle imprese, eccetera. Per far questo la proposta è quella di trasformare questa esperienza della rete telematica in una società pubblica che gestisca strategie, politiche, interventi. Si tratta di una proposta che in qualche modo tenta anche di razionalizzare quello che c'è, e devo dire che la Toscana, come del resto altre regioni, mi viene in mente, non solo perché è vicina alla Toscana ma anche l'Emilia Romagna, ha fatto effettivamente negli anni passati un lavoro lungimirante di posa di fibra ottica. Però, come alcuni dicono, poi questa fibra va ben utilizzata, razionalizzata e messa anche a disposizione di cittadini e pubblica amministrazione. Questa società, questa ipotesi di creare una società regionale che gestisca tutte le reti che sono state posate e naturalmente le metta poi a disposizione anche degli altri operatori che vogliono offrire servizi, dovrebbe essere composta da chi, da quali soggetti? Ma dalla regione e dai comuni. Nel senso, io penso che le gambe istituzionali dei prossimi anni siano queste, e quindi inevitabilmente bisogna appoggiare su questi. Le regioni da una parte non le mette in discussione nessuno con un potere legislativo e di programmazione, dall'altra i comuni, che sono i soggetti che gestiscono funzioni che oggi sono già loro, funzioni che potranno venire loro dà alle scelte di riordino delle province e di riassetti istituzionali. Quindi le due gambe sono queste. Su queste due gambe bisogna innestare le politiche partendo da un catasto di ciò che c'è. Ci sono stati vari tentativi, noi pensiamo che non siano sufficienti per avere un quadro esatto di ciò che in Toscana esiste dal punto di vista della banda larga e dell'infrastrutturazione della rete telematica. Questo è il primo passaggio, come dire, un piano regolatore di ciò che abbiamo e di ciò che inevitabilmente manca, perché sono stati investiti tanti soldi da parte del pubblico e da parte del privato, da parte del pubblico soprattutto nelle aree deboli, quelle dove non c'è reddito, da parte del privato nelle aree più interessanti dal punto di vista redditizio. Ora, su questo bisogna capire dove siamo e dobbiamo agire dove c'è bisogno. Mi sembra che questo sia il senso dell'agenda digitale. Che cosa vuol dire? L'agenda digitale è prima di tutto un quadro conoscitivo. Poi su questo quadro conoscitivo si innestano le scelte che si ritiene opportuno, utile e azzeccato fare. Senta, a questo punto qualcuno potrebbe dire, ma in tempi di risorse scarse ci sono, come possono essere reperiti i soldi per realizzare sia la mappatura, questo catasto e poi questa società che gestisca tutte queste reti? Ma sa, qui è invalsa questa idea ora che non si possa più costruire, ma ci tocca solo chiudere. Questo è un tempo in cui non si costruiscono nuove strutture di gestione, ma è un tempo in cui si chiude anche ciò che c'è e che magari è utile. Io non sono di questa opinione, io sono un po' vecchia scuola. Penso che se facciamo la scelta giusta, questa renderà a merito, nel senso che La infrastrutturazione telematica del territorio è una risorsa per competere, e la Toscana non può stare a guardare quello che succede. La Toscana ha potenzialità, criticità, ma ha tante possibilità. Queste possibilità vanno sfruttate. Il nostro problema è creare una sede per poter sfruttare queste potenzialità, altrimenti, come dire, nell'era della competitività noi riusciamo a rimanere indietro e non ce lo possiamo permettere. Le faccio un'ultima domanda. Questa proposta è stata formalizzata all'inizio di settembre. Dall'inizio di settembre ad oggi che tipo di reazioni avete visto? Non particolarmente incoraggianti, soprattutto in regione, dove ci è sembrato di poter cogliere un atteggiamento attendista rispetto a scelte politiche nazionali dello Stato, che per carità deve fare assolutamente la sua parte, ma la Toscana non può limitarsi a guardare, a osservare ciò che accade. La Toscana deve essere un protagonista del dibattito nazionale. Questa è la chiave di volta. L'impressione, ecco, che non si sia ancora compreso che questo è il punto a cui dobbiamo collocare la Toscana, e io non a caso non dico non Regione Toscana, ma la Toscana nel suo insieme, la parte pubblica della Toscana nel suo insieme. Pesci, la ringrazio della disponibilità, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie anche a voi. Io fossi una regione, di fronte ad una proposta del genere, aderirei subito, anzi sarei felice che un'associazione di comuni come Lanci faccia una proposta di questo tipo, una proposta concreta, anche perché la dimensione regionale è una dimensione che consente di arrivare ad un risultato in tempi ragionevoli. Certo, c'è il problema che magari alcune poltrone potrebbero saltare in questo processo di razionalizzazione, di consolidamento, ma dobbiamo ancora pensare ad alcune poche poltrone o al beneficio che una cosa del genere potrebbe dare alle aziende, alle imprese, ai cittadini, anche alla pubblica amministrazione, mettendo in contatto questo sistema. Altre regioni dovrebbero darsi una mossa, tipo l'Emilia-Romagna, tipo il Piemonte, che già comunque sta facendo alcune cose interessanti, la Lombardia, che ha lanciato alcuni progetti di cui abbiamo parlato. Adesso parleremo presto nuovamente di un progetto che è in corso a Concorrezzo, una zona dove ci sono 400-500 aziende, dove c'è un progetto per collegarle in fibra ottica, ma bisogna fare di più. e sicuramente alcune regioni sono più portate, beh anche il Veneto, non dimentichiamoci, Veneto, Triveneto dovrebbero velocizzare i progetti, alcuni progetti che già esistono, ma comunque fare un accordo generale almeno all'interno della regione per accelerare questa diffusione della fibra. Bene, naturalmente parleremo e anzi vi invitiamo a scriverci, questo dovrebbe diventare anche un tema politico, molto più importante di altre infrastrutture, ci sono ancora politici che parlano di autostrade. In questo mondo le autostrade certo servono, ma servono molto di più le autostrade digitali in fibra ottica. Bene, questo è 2024, tra poco parleremo di un altro tema che non c'entra nulla, ma che in qualche modo comunque si collega. Parleremo di sicurezza e di frodi nel mondo delle carte di pagamento. Una delle obiezioni che spesso vengono fatte per dire no, io non uso il denaro digitale è che c'è il timore che avvengano delle frodi. Allora, il numero di frodi che avvengono in ambito digitale è infinitamente più basso rispetto alle frodi che avvengono nel mondo fisico, cioè nel mondo dei soldi reali, dei soldi in contanti. Allora, di questo parleremo tra poco a 2024, adesso c'è una breve pausa, riprendiamo tra un paio di minuti. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, dove 2024 sta per 2024. Ci sono anche i nostri account su Facebook, quindi cercate 2024, oppure Twitter, su Twitter mi potete trovare anche come @_Pagliarini. Adesso parliamo di moneta digitale. Ah, prima vi dicevo che potete scriverci se avete idee, proposte o soprattutto volete segnalare progetti concreti, il più possibile concreti, relativi a fibra ottica. Allora, noi analizziamo il mercato, siamo in contatto con quasi tutti gli operatori, tutti gli osservatori, quindi abbiamo più o meno il polso della situazione. Però se volete scriverci, ben venga. Anzi, se siete una pubblica amministrazione, se siete una società che sta facendo progetti in fibra ottica per diffondere la fibra ottica, benvenga. Poi naturalmente valutiamo, perché ci sono anche dei progetti che, come ha detto un amico, sono FTTP, Fiber to the Press, cioè sono solamente annunci e poco altro. Molto simpatico, dopo il FTTC o che è Fiber to the Cabinet, il Fiber to the Home FTTH o l'FTTB Fiber to the Building, c'è anche il FTTP Fiber to the Press, molto divertente. Chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, parliamo di pagamenti elettronici. Io quando al casello dell'autostrada vedo file di automobili lì che aspettano per pagare in contanti, mi stupisco e dico, ma perché uno non vuole pagare con una carta? Ad esempio il bancomat oramai è gratuito su tantissimi conti, quindi il costo penso che non possa più essere una scusa. Alcune persone ci scrivono e ci dicono, però non sono proprio sicuro al 100%, e adesso vogliamo capire se e come ci sono le frodi, come vengono fatte queste frodi, quante sono queste frodi. Saluto ed è con noi oggi nel nostro studio Andrea Gambelli, che è il responsabile dell'unità di prevenzione frodi della SIA. Benvenuto a 2024, Gambelli. Grazie a voi, buongiorno. La SIA è la società in Italia, ma poi vedremo che non solo in Italia, si occupa di far funzionare i pagamenti, cioè far parlare le banche le une con le altre. Che cosa fate? Beh, la SIA è una società interbancaria che offre servizi di sistemi di pagamento, non solo, anche di networking, quindi di rete protette ad alta tecnologia, gestisce tra le banche ma anche tra aziende, tra società di telecomunicazione, tutto ciò che attiene al mondo dei sistemi di pagamento, al mondo di alcuni aspetti della negoziazione di borsa, capital market, in quanto noi gestiamo piattaforme per la borsa di Londra per determinati ambiti e a quello che viene anche fatto con molti cellulari, tutte le ricariche, tutti i pagamenti dei bollettini. Voi siete anche dietro alla rete del Bancomat, giusto? Certamente, certamente. SIA è il principale player per quanto riguarda la gestione gestisce la rete nazionale interbancaria, ma gestisce anche la parte di pagamenti POS, una larga parte dei pagamenti POS con carte Bancomat e la rete di accettazione, quindi lato esercente del pago Bancomat. Sì. Tutti questi dati transitano su internet o no? No, questi dati transitano su canali e reti protette con tanto di chiavi di crittografia, sia da un punto di vista del dato all'origine, sia da un punto di vista del trasporto. Quindi sono dei pacchetti blindati dove anche la SIA stessa non può mettere, non può vedere i dati all'interno. Li trasporta, li protegge, ma li valida, ma non è in grado anche lei stessa di poter leggerne il contenuto sensibile. Quindi anche fisicamente questi dati transitano su reti che non sono internet? Anche fisicamente il pagamento del POS, il pagamento all'ATM o il prelievo all'ATM non viaggia su canali internet. C'è proprio un cavo a parte? Ci sono delle reti, delle linee dedicate che sono preposte allo scambio di questi dati tra punto punto, cioè quindi è una... Però le frodi esistono, perché certo. Sennò non esisterebbe l'unità antifrodi, prevenzione frodi. Certo, le frodi esistono e fanno parte, diciamo, sono un elemento fisiologico di qualunque strumento di pagamento che attiri, no? La possibilità, se intercettato, di poter far soldi. Quindi le frodi esistono, però... diciamo subito una cosa, che così sgombriamo il campo e non diamo, diciamo, togliamo alcune... armi a quelli che dicono: ah, ma no, ma io non uso i pagamenti elettronici perché chissà cosa succede. Allora, frodi, facciamo subito un confronto tra il mondo fisico e il mondo virtuale, poi parliamo anche delle frodi virtuali che comunque esistono. Allora, le frodi sul mondo fisico sono state validamente combattute negli ultimi anni, nel senso che la principale fonte di frode era una tecnologia che si è sviluppata, la capacità di copiare i dati della banda magnetica, quindi è diventata una tecnologia a basso costo, quindi ci sono degli apparecchietti portatili o degli skimmer, si chiamano così, quindi in grado al semplice passaggio di copiare il dato della banda magnetica. Per questo c'è stato un forte investimento, tanti anni fa, di adozione di un microcircuito, quindi di un chip sulle carte che rende questa operazione impossibile. E quindi oggi le carte con tecnologia microcircuito, quindi le carte che in Italia abbiamo sostanzialmente... Cioè parliamo di carte Bancomat, ma anche delle carte di credito. Di credito, di debito, prepagate, sì, sì. Qualunque, ormai nella loro funzione a chip sono non clonabili, non c'è... E questa è una leggenda? Il fatto che venga clonata una carta chip è una leggenda, nel senso che tecnologicamente, mettendo insieme investimenti molto ingenti in hardware e software, quindi... veramente stiamo parlando di cifre astronomiche, si potrebbe clonare una carta e per quella dopo bisognerebbe ricominciare da capo, quindi stiamo parlando di pura teoria al momento. Quindi diciamo la frode si fa clonando e copiando la banda magnetica. Sì. Che poi dove si può usare? Ecco, questo è uno degli anelli un po' deboli della catena, perché noi italiani, diciamo, parliamo di noi che ci interessa di più, subiamo le frodi, perché... ci sono delle aree geografiche nel mondo dove questa tecnologia nella rete di accettazione, quindi i POS e gli ATM, non sono ancora migrati all'utilizzo della tecnologia chip. Questo fa sì, ha un doppio effetto. Il primo è che le banche italiane o comunque gli emittenti italiani, anche non banche, siano obbligati a mettere ancora la banda magnetica nella carta, cioè quindi non possono mettere solo il chip, perché altrimenti... quando uno si sposta dall'Italia dovrebbe verificare che rete di accettazione c'è in quel dato paese estero e farsi emettere una carta adeguata, un processo, sì, che chiaramente è incompatibile con la vita quotidiana. No? Cioè, certo, quindi in Italia siamo passati tutti al chip, cioè i POS di accettazione. Sì. Tutti, sì. Sì. I posti di accettazione, salvo rarissime eccezioni, ma è dove l'esercente si assume a questo punto la responsabilità della frode, quindi rimborserebbe comunque qualunque cosa, perché lui si assume la cosiddetta liability shift, cioè quindi prende una, si assume lui questo rischio, e quindi anche se dovessimo subire una frode verremmo comunque rimborsati. Sì, sì. Quindi come vengono fatte queste frodi? Le frodi vengono quando vengo, allora, posto che appunto il chip non lo posso clonare e quindi clono la banda magnetica e utilizzo questi dati in altri paesi, ma anche in Europa ci sono paesi che non hanno ancora il chip. Sì, sì, anche in Europa ci sono paesi dove la migrazione al chip, ancorché obbligatoria, nel senso, poi ci sono i problemi del trade-off, cioè il problema dei costi-benefici nel cambiare, per esempio, pensiamo a una catena di grande distribuzione che ha questi lettori integrati nel registratore di cassa, sì. Quindi che ha molte funzioni, tra le quali la lettura della carta. L'adozione di una lettura a microchip rispetto a una lettura a banda comporta il cambiamento di tutto il registratore di cassa con costi molto elevati. Ci sono delle situazioni in cui la catena dice: io, facendo una verifica dei costi-benefici, mi rendo disponibile a pagare tutte le frodi che avvengano nel mio negozio, perché io metto la gente a guardare, a controllare, quindi sono sicuro che a me non truffatore nulla, non è, piuttosto che fare un investimento che cambiare tutte le cambiare. Okay. Allora questo chiaramente lascia degli spazi per fare le frodi. Ma come avvengono queste frodi? Come ci spieghi come fare? Ci sono due così lo facciamo magari sì, domattina. Intanto c'è un altro elemento da non sottovalutare, che è quello dell'utilizzo del PIN. Per esempio, il Pago Bancomat in Italia è un prodotto praticamente a frode zero, cioè le frodi sono sotto il cosiddetto fisiologico. Perché, e quindi c'è sempre quello che dichiara: mi è successa una certa cosa, ma in realtà non gli è successa, nel senso che la carta è stata presa da un familiare, da un figlio, da un collega che sa il PIN. Cioè, per voi dite, spesso quando si vanno a fare le indagini si scopre che poi quello che è stato dichiarato non è completamente così. Perché noi, cioè, diciamo, si parte da delle cose che sono delle certezze, no? Al di là di quello che si possa dire in giro, noi sappiamo per certo che certe cose non possono succedere. Quindi quando uno le dichiara, per l'amor del cielo, perché quella è la percezione che lui ha, no? La convinzione, però noi partiamo invece dal dire: bene, è stata usata una carta, è stata fatta una transazione a chip, bene, con l'utilizzo del PIN, ok, qualcosa è andato storto, cioè la carta è stata quella, non è stata clonata, perché non è possibile, quindi è stata usata quella carta, e già questo ovviamente cambia la prospettiva, perché mentre il titolare è convinto mi hanno clonato la carta, noi sappiamo per certo che ciò non è avvenuto, e quindi il tipo di indagine va in una direzione radicalmente diversa. Chi aveva accesso alla sua carta, sì, anziché dire come avranno fatto a clonarla? Non l'hanno clonata, perché noi sappiamo per certo come è avvenuta la transazione, se con lettura della banda o con lettura del microprocessore, se con l'utilizzo del PIN o senza l'utilizzo del PIN. Un'altra informazione importante è che nei dati della carta, nel chip, non ci sono i dati del PIN, quindi nessuno può derivare o estrarre dal microchip il PIN. Non è lì, non c'è. Quindi uno lo deve, diciamo, la frode fatta in questo modo vuol dire che uno lo ha rubato in qualche altro modo, oppure mi ha visto quando io digito, esatto, il PIN. Esatto, l'ha carpito. Allora, parcheggiando le carte bancomat che sono chip e PIN, quindi è una accoppiata che rende, e non possono essere usate all'estero. Quindi questi insieme di... Come non possono essere usate all'estero? La carta Pago Bancomat, quando uno va all'estero, non transa con il circuito Pago Bancomat, ma con la parte internazionale, tipo Maestro, Visa Electron, Mastercard. Okay. Quindi il Pago Bancomat è un prodotto il cui livello di sicurezza è alle stelle, tant'è vero che non c'è la frode su questo tipo di prodotto, perché proprio ha questa caratteristica. Chip e PIN lo usi solo in Italia. Cioè non c'è la frode vuol dire che è zero? È zero. Poi la frode, ripeto, mi hanno rubato la carta, ci avevo scritto il PIN sopra, perché se no non me lo ricordo, hanno fatto la frode, io la denuncio come frode. Però non è una frode... Sì. Ok, quindi parcheggiato questo mondo, diciamo che non è frodabile. Diciamo. Esatto. Okay. Ovviamente cosa succede? Quando io vado per esempio a uno sportello automatico, a un ATM, a fare un prelievo, a un bancomat, come si dice, no? Inserisco la carta perché questa poi venga letta come chip. Questo inserimento fa sì che la carta passi attraverso una feritoia. Allora, quello che vediamo su questi bancomat è che ci sono queste feritoie sempre più strane, sì, ipertecnologiche. Sì, sì. Perché? Perché la tecnologia a disposizione ha fatto sì che venissero realizzati delle feritoie artificiali, dei lettori che venivano sovrapposti all'ingresso della carta, molto sottili, cioè irriconoscibili per il titolare, con a bordo la tecnologia per copiare la banda magnetica durante il passaggio. Ok. E quindi la copiatura della banda magnetica faceva acquisire un elemento importante, cioè i dati della banda. Mi manca il PIN. Il PIN come viene catturato? Viene catturato con delle microcamere disposte in vari posti dell'ATM che durante la digitazione riuscivano a filmare. Ed ecco perché ci sono queste protezioni adesso sui bancomat che impediscono l'inclinazione fatta in un certo modo. I bancomat sono modificati per impedire questo, il poter apporre videocamere o sovrapporre tastiere artificiali, perché è l'unico modo che hanno per carpire il PIN. Ok, ma poi dove vengono usate queste carte, visto che abbiamo detto che in Italia l'utilizzo del chip è oramai diffusissimo, quindi la banda magnetica serve quasi a nulla? Vengono utilizzate in paesi dove questa migrazione nella rete di accettazione al microchip non è ancora stata fatta o è molto indietro. Un esempio, diciamo, più eclatante è quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno ancora una rete di accettazione integralmente a banda magnetica. Pensa un po', eh? Quindi la leggenda, gli americani sono avanti, no? dipende da che cosa. Okay. Perché adesso è stata appunto presa una posizione forte, perché risultavano un po' l'anello debole della catena, no? Quindi un elemento di criticità per l'Europa, che anche loro hanno dovuto aderire a un'obbligatorietà, quindi hanno avviato, perché hanno un'obbligatorietà normativa, la migrazione verso il chip della rete. Tornando al nostro cattivo che ci con questo sistema, perché lei usava il verbo al passato? Perché non ne vengono più utilizzati questi sistemi? Perché adesso gli ATM, perché le banche, gli operatori specializzati che hanno queste informazioni, ovviamente reagiscono. Certo. E quindi oggi le tecnologie con cui vengono costruite le feritoie degli ATM sono fatte in modo tale che è impossibile sovrapporre questi. Quindi c'è qualche ATM magari rimasto in qualche paese o quant'altro. Allora, in questo caso, quindi io ho i dati della banda magnetica, ho visto il PIN, cosa me ne faccio? Ci posso fare una carta identica a quella originale. Quindi replico una carta. Sì, rimagnetizzo una banda magnetica di un supporto plastico. Sì. Non necessariamente, se ho il PIN, non mi serve prendere una carta che abbia anche un aspetto simile a una carta originale, perché se ci posso andare a prelevare, che è la principale. Sì. Vado in un altro paese e faccio un prelevamento oppure un pagamento. Un prelievo, diciamo che. Che sì. Poi non vado in un altro paese, via internet. Spedisco i dati a qualche mio compare. Sì, ci sono delle organizzazioni che esatto, no, che comprano e vendono queste informazioni, perché è molto organizzata questa cosa, ovviamente. Lei mi diceva che in 10 minuti si fanno tutto? Ah sì sì, anche meno, nel senso che chiaramente qui si sfruttano le tecnologie ovviamente. Quindi internet. Cosa succede? Una volta carpiti i dati vengono trasmessi, diciamo, in via telematica delle stazioni che li raccolgono e li spediscono dove ci sono unità in grado di magnetizzare le carte. Le carte vengono magnetizzate, sono degli apparecchi di magnetizzazione uguali a quelli utilizzati per magnetizzarle in modo autentico. Certo. Vengono distribuite a una rete di galoppini, cioè di gente che va poi agli ATM a prelevare i soldi, magari dall'altra parte del mondo, magari 10 minuti dopo la propria transazione genuina in centro a Milano. Certo. Però, qual è l'elemento che secondo me sfugge? Però poi il titolare non ci rimette i soldi. Perché gli vengono rimborsati dal sistema. E questo è una peculiarità della moneta elettronica che non c'è per quasi nessun altro mezzo. Se mi rubano il portafogli, se mi rubano in casa i soldi, il portafogli, qualunque altra cosa, ho perso i soldi, sì, e neanche sì, vado sì. a lamentarmi. Qui no. Sì. Quindi... Ma adesso invece le frodi come vengono fatte? Visto che quelli che producono i bancomat, se rimaniamo in questo ambito, hanno reagito e quindi diciamo i bancomat sono più evoluti, le frodi oggi come vengono fatte? Beh, diciamo che chiaramente la frode da prelievo si muove in questa direzione, cioè cerco di carpire i dati di banda e di spostarmi nei paesi dove posso farlo. Qua quel tipo di frode sta scomparendo, nel senso non la possono più fare, siccome sono organizzazioni mondiali. Diventa sempre più difficile fare queste frodi. Vanno a cercare dove riescono a farle fin tanto che potranno. Poi quando non potranno si dovranno attrezzare in modo differente. Quindi nuovi trend di frode quali sono? Diciamo, i nuovi trend di frode sono, ovviamente seguono il trend di utilizzo. Quindi oggi si aumenta sempre di più l'utilizzo dei sistemi di pagamento tramite il canale internet e quindi c'è sempre maggiore attenzione di interesse da parte delle organizzazioni criminali a trovare un modo per inserirsi all'interno di questi canali. E qui siamo passati diciamo dal mondo fisico, cioè delle carte fisiche che ci permettono di pagare nei negozi, cioè diciamo, al mondo virtuale. In questo caso basta un piccolo software per ricreare i numeri, ad esempio, della nostra carta di credito e fare magari un acquisto online? Sì, se questo, e anche qui, se poi l'acquisto online viene fatto su esercenti che sono rimasti molto indietro, cosa che è sempre più rara, perché anche qui le tecnologie a disposizione per poter fare transazioni internet sicure nel vero senso della parola, cioè equivalente a quelle che abbiamo detto chip e PIN, ci sono e sono sempre più utilizzate. Infatti i volumi di utilizzo internet, di transazioni internet, crescono in modo esponenziale, mentre non crescono nella stessa maniera le frodi internet. È chiaro che prima erano zero perché l'utilizzo di internet era molto basso, certo. E adesso c'è qualche frode internet perché ci sono comunque anche lì degli anelli ancora non così solidi o comunque della lentezza nell'adozione delle tecnologie che gli operatori specializzati hanno, ma siccome su internet è facile anche per un operatore non specializzato magari riuscire a crearsi un sito, a proporsi, certo. E quant'altro, ci sono molti punti deboli, diciamo, i punti deboli sono maggiori rispetto sì, al mondo. C'è meno consapevolezza rispetto al fatto che la carta me la deve dare la banca e quindi la banca è un operatore specializzato e monitorato e vigilato, quindi non è che può fare, deve avere certe caratteristiche. Il web si sta muovendo in questa direzione, ma ovviamente essendo una modalità emergente ha più disomogeneità. Certo. Anche in questo caso stiamo parlando di una battaglia dove chi attacca diventa sempre più bravo e chi difende deve sempre correre in avanti, quindi aumentare la robustezza della tecnologia. Certo. Non si scappa. Il grande vantaggio di chi attacca è che non ha nulla da perdere, nel senso è quasi un gioco, nel senso, no? Poi è un gioco che rende, può rendere certo. molti soldi, ma scusate, il tentativo di capire se esistono delle crepe, no, in questo sistema viene fatto liberamente ed è reiterato finché non trova un anello debole. Per chi si difende, ovviamente, ogni volta bisogna anche passare attraverso l'emanazione di una normativa comune, l'adozione da parte quindi di è più tutti. Complicato. E quindi la velocità certo. di questi due mondi non è mai identica. Vero è che oggi, siccome c'è una grande consapevolezza, ci sono investimenti preventivi. Cioè gli operatori specializzati sviluppano dei software, nel caso nostro noi lo mettiamo a disposizione di tutti i nostri clienti, che sono molto sofisticati nel prevenire comportamenti che sono stati raccolti magari in angoli del mondo altrove, ma noti, per cui abbiamo dei sistemi anche di tipo neurale. Che tipo, ci fate un esempio per capire? Ci sono dei sistemi di prevenzione frodi, quindi non dei sistemi di detection, sì. cioè successivi alla frode, di prevenzione frodi che sono in grado di analizzare il comportamento delle singole carte, del profilo del titolare e reagire a una devianza da questo comportamento cercando di compararla con un pattern comportamentale, cioè con un tipo di frode che è successo da qualche parte nel mondo. Sì, magari, ma possiamo fare un esempio? L'esempio più banale è che se io uso la carta in una certa modalità fisica, quindi lettura della carta fisicamente, a Milano e 10 minuti dopo a Roma, io da Milano a Roma in 10 minuti non ci posso andare. Certo. Quindi il sistema immediatamente nega la transazione successiva, quindi non la fa fare, non c'è la frode, perché dice questa carta fisicamente da Milano a Roma in 10 minuti non ci può andare. Però se lei mi ha detto che diciamo, è tutto basato su chip, questo non può nemmeno accadere. Diciamo, questo esempio non vale sì, in Italia. Sì, non vale perché però io ce lo posso avere tra Milano e New York. Ok, sì sì, ok, in questo caso. Okay. E nel mondo virtuale? Nel mondo virtuale anche lì ci sono dei sistemi che permettono di... Intanto la transazione sicura oggi viene il modo con cui i network internazionali, perché poi sono i più interessati ovviamente al fatto che Visa, Mastercard, Diners, a che le transazioni siano sicure perché è il loro mestiere, no? Altrimenti chiudono. Certo. E chi sono i principali... Hanno dato delle obbligatorietà agli acquirer, cioè a chi gestisce gli esercenti, a chi gestisce i titolari, che il commercio elettronico deve essere di tipo sicuro, quindi deve avere una registrazione, un'autenticazione attraverso delle chiavi dinamiche sia su un server centrale dell'esercente sia su un server del titolare. Quindi queste transazioni, se fatte su questo tipo di esercenti certificati, il cosiddetto e-commerce, cioè commercio elettronico sicuro, non è soggetto a frode. Non ci sono frodi su transazioni di e-commerce in cui uno inserisce, per semplificarlo, il famoso la chiave random che viene generata dall'apparecchietto che uno ha in mano, no? Sì. L'OTP. Ecco, in questa modalità, oltre a non esserci frodi, perché di fatto c'è una doppia autenticazione, qualora ci dovesse essere una frode, ci fosse una frode per qualche arcano motivo, il titolare è garantito e rimborsato, perché avendo utilizzato questo strumento lui semplicemente dice non l'ho fatta io e viene riaccreditato. Sì, sì. Senta, oggi si parla molto, no purtroppo, però si comincia a parlare di NFC, quindi sì, di pagamenti tramite carte oppure anche smartphone che hanno a bordo questo chip a radiofrequenza che può fare pagamenti. Dov'è il punto debole? Quindi diciamo, mettiamoci sempre dalla parte dei cattivi. Cosa si Ma può diciamo fare? Diciamo che anche qui la differenza tra uno smartphone che ha a bordo un'antenna NFC e quindi poi un tipo di SIM atta a dialogare con questo sistema. Poi in realtà nella transazione di pagamento non ci sono differenze rispetto alla carta contactless. Cioè sì, la carta contactless sfrutta la stessa tecnologia, c'è un'antenna sì, a bordo sì, della carta e poi un chip che dialoga con l'antenna per scambiare dei dati. La modalità di dialogo tra lo smartphone o la carta e il terminale POS è sicuro tanto quanto quando viene letto il chip, perché è tutto criptato, non ci sono dati in chiaro che vengono scambiati, quindi la difficoltà... Quindi anche in questo caso la leggenda che... Uno mi passa vicino con un lettore e mi ruba i dati della carta di credito. No, non ruba niente, non ruba niente, perché i dati comunque, a parte il fatto che gli smartphone, per dire, hanno ovviamente l'antenna, cioè l'apertura dei dati dove stanno, dove i dati carta, cioè il secure element, cioè il posto all'interno della SIM dove stanno i dati carta, per farlo dialogare tramite antenna, richiede un comando, nel senso che uno deve dire voglio pagare, sì, e se no non è che se uno passa l'antenna attiva e cattura i dati. Secondo, non cattura dei dati in chiaro, cattura dei dati criptati che non sono leggibili. Uno dovrebbe avere le chiavi. Le chiavi, che è come se uno c'ha in mano un chip. Sì, sì, sì. Diciamo che lo può fare la NSA. Esatto. Uno quindi... normale no. Senta, sistemi... altre frodi che vanno di moda oggi? Beh, diciamo, no. Per fortuna, diciamo, il trend delle frodi è in calo. Nel nostro paese è in calo, ci sono dati statistici che molto importanti, cioè si è passati da un valore X a un valore dimezzato, nel senso che ci sono i circuiti internazionali che raccolgono tutte le segnalazioni, perché una banca quando subisce una frode cerca di recuperare i soldi, quindi fa delle segnalazioni verso il circuito, non fosse altro per dire ho avuto una frode presso quell'esercente, quindi qualcuno vada a vedere, perché alla decima volta che uno dice ho avuto una frode presso quell'esercente, chiaro, ovviamente il circuito si attiva verso chi gestisce l'esercente per dire ma questo cosa sta facendo. Sì, quindi tutti questi dati vengono collezionati e monitorati per capire il trend, e questo trend è in forte diminuzione da, cioè, e comunque stiamo parlando di percentuali, cioè di frode nell'ordine di pochi euro ogni 10.000 euro spesi. Quindi di fatto lei mi sta dicendo che le frodi non ci sono quasi più. No, no, le frodi ci sono, perché comunque quello che sfugge è che il volume di transato con carte è in continua crescita. Certo. E quindi è chiaro che poi le tipologie di frode che non sono limitabili con la tecnologia. Se mi rubano la carta e io il portafoglio, io nel portafoglio c'ho il PIN scritto da qualche parte, ma la gente è smart. Cioè sì, sì. No, nel senso, quello che voglio dire è non ci sono nuovi sistemi di frode? No, nuovi sistemi di per sé no. Ovviamente c'è il tentativo di poter accedere a basi dati protette non professionalmente, cioè se l'utilizzo delle carte, che è sempre più diffuso, fa sì che questi dati finiscano anche in posti che dovrebbero essere protetti, non così vigilati sono gli operatori specializzati. Infatti una tendenza di molti operatori non bancari adesso è quella di dire sì, io sono la grande distribuzione, io sono l'operatore telefonico, ma siccome oggi anch'io di fatto gestisco strumenti di pagamento, poi si rivolgono, hanno la tendenza a rivolgersi a società come può essere SIA o altre equivalenti per far manutenere i dati all'interno di infrastrutture protette, perché altrimenti se stanno su un gruppo di esercenti, tu mi dai, oggi la gente dà il proprio numero carta per aderire a qualunque abbonamento, gioco online e quant'altro, perché ha la percezione che se tanto poi succede qualcosa mi rimborsano. Ecco, la carta è uno strumento di pagamento, cioè va comunque custodito con un minimo di diligenza, no? Cioè. Senta, per concludere, visto che si dice, e anche a 2024 abbiamo parlato recentemente, di sistemi per sostituire password e anche PIN, visto che abbiamo detto che il PIN è uno degli elementi di sicurezza del bancomat, recentemente noi abbiamo parlato di impronta digitale per sostituire il PIN e anche della voce. Ci sono delle banche che hanno cominciato a utilizzare la voce come password. Questo può essere un futuro per la sicurezza dei pagamenti elettronici, cioè la biometria? Beh, diciamo che la biometria sicuramente sempre più ci sono sperimentazioni per vederne applicazioni nel mondo, diciamo, di tutti i giorni, e sicuramente si arriverà ad avere strumenti biometrici che garantiscano più facilità, più semplicità e magari più sicurezza. È chiaro che è un percorso non semplice, primo di tutto perché comunque questi strumenti sono costosi da implementare in modo massivo, perché noi siamo abituati a pensare all'ATM, quindi allo sportello bancomat, o magari al negozio tradizionale POS, ma sempre più l'utilizzo delle carte viene fatto sulle barche, viene fatto sulla spiaggia, viene fatto, cioè, e quindi poi diventa, cioè, dotare cioè lei dice mettere il lettore di impronta digitale o l'impronta dell'iride, oppure però ad esempio il microfono per la voce sarebbe una è una delle tecnologie. Poi ovviamente qual è l'elemento di tutte queste sperimentazioni che sono in corso? È il fatto che ormai nell'abitudine nostra c'è quella che la carta deve funzionare, sì, non ogni tanto, sempre. Quando non va ci arrabbiamo. Sì. Allora, il problema di queste nuove tecnologie passa proprio attraverso questa comparazione. Qual è la percentuale di non funzionamento dato dalla tecnologia che io sto sperimentando? È il 30%? Immaginatevi che sentire chi le fa direbbero di no, però direbbero di no, però loro lo paragonano al loro ambiente, alla loro disponibilità di tecnologia e non a quella all'interno delle montagne del Burkina Faso, che però accettano le carte via GSM. Cioè, sì, è sì. Questo un po', cioè, alla fine il circuito internazionale Visa dice: se io dico che tu hai fuori una vetrofania Visa, Mastercard, deve qualunque, funzionare. Certo. Deve funzionare. Se questa tecnologia è più sicura, ma ha un funzionamento del 50%, non è compatibile con uno strumento di pagamento. Gambelli, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a risentirci. Grazie a voi. Parliamo spesso 2024 di startup, del sistema delle startup, ne abbiamo parlato anche recentemente. È un ecosistema che sta effettivamente crescendo, si sta trasformando, sta, potremmo dire, maturando negli ultimi anni, ma i passi da fare sono ancora molti. La prossima settimana ci sarà la premiazione di un premio a proposito di startup molto prestigioso e anche molto ricco, molto interessante, che è il premio Marzotto, che è arrivato alla terza edizione. Il direttore del premio Marzotto è Cristiano Seganfreddo, che è con noi. Benvenuto, benvenuto a 2024. Bene, ben trovati. Partiamo dal premio per riassumere brevemente perché esiste questo premio e perché in qualche modo parliamo di startup. Allora, tu dici bene, è un premio all'innovazione, uno dei premi più ricchi in Italia, forse anche nel mondo, 800.000 euro di montepremi, di cui 400.000 euro cash, cerca di lavorare sul tema dell'ecosistema. In Italia abbiamo troppi sistemi, continuiamo a dire che dobbiamo far sistema, ma i sistemi sono chiusi, abbiamo bisogno di creare un sistema neuronale, per cui tanti delle connessioni, non abbiamo bisogno di raccontare un sistema o dire che c'è o perimetrarlo, abbiamo bisogno di attivarlo, per cui il primo compito del premio è proprio quello di attivare un sistema o i vari sistemi che ci sono. Intendo dire, ci sono degli incubatori, ci sono degli acceleratori, ci sono degli angels, ci sono delle banche, banalmente ci sono degli imprenditori. Ci sono, esatto, le imprese importanti. Ci sono le università. Per cui c'è un sistema molto articolato di soggetti che sono interessati a questo tema che ormai anche mia madre conosce, che è l'innovazione. Poi non si capisce bene come fare l'innovazione, da dove viene fuori, come si fa, come si crea. Cerchiamo di raccogliere quelli che abbiamo definito in modo un po' ecumenico i costruttori di futuro. C'è gente che abbia delle idee per rigenerare un sistema che è il sistema italiano. Non solo creare la propria idea, la piccola propria startup dal garage, ma proprio entrare dal di dentro di un sistema che forse non ha bisogno di creare nuove imprese. Perché secondo me dobbiamo ricordarci che l'Italia è ricchissima di imprese. In molte parti del paese abbiamo un'imprenditorialità straordinaria. E tu dici, l'innovazione dovrebbe essere anche all'interno delle imprese, dovrebbe essere un'innovazione di prodotti e servizi che magari già esistono. Assolutamente, bisogna rigenerare il sistema manifatturiero, il sistema delle PMI italiane. In molti casi le startup possono far questo. Poi parliamo anche del montepremi, che non è un aspetto secondario. Dal vostro osservatorio, perché quanti sono gli innovatori che si rivolgono, che partecipano al premio? Beh, sono numeri abbastanza straordinari. Quest'anno abbiamo avuto 921 persone che hanno presentato un'idea completa, cioè hanno fatto quello che viene detto executive summary, sì, per cui hanno fatto un'application completa per presentare la loro idea di impresa. Per cui sono un numero interessante, quasi 1000 persone. In realtà sono gruppi di persone, anche questo è un dato secondo me sociale interessante, ancora meglio, certo. Perché non c'è più il singolo innovatore. Un dato sociale interessante è vedere che generalmente sono gruppi di persone, gruppi di ricerca, sì, ma molto spesso anche magari autodidatti, eccetera, che presentano la loro idea. Senti, dal vostro punto di osservazione, vedete che l'innovazione c'è, esiste o è scarsa, rara? È più rara, dovrei dire che ce n'è tanta. Ma si parla molto di startup, no, ma puoi trovare. Un vero tema è che abbiamo tantissimi mitomani. Sì. Il paese è fatto di mitomani. L'asticella che abbiamo tenuto sull'innovazione è stata troppo bassa. Per cui abbiamo permesso di dire a qualcuno che è un innovatore saltando una misura ridicola. Per cui bisogna alzare l'asticella non può che essere quella globale. Un ecosistema deve essere inconnesso nel mondo. Forse la vera crisi è dirti che se tu stai a Cadone è come stare a Shanghai, le stesse identiche opportunità. Prima c'era un mercato drogato, chi stava a Cadone voleva essere il primo della provincia di Padova. Oggi forse bisogna rompere questo schema e dire: guardate che oggi, se vuoi essere veramente un innovatore, devi essere a livello globale. Del resto le aziende, noi siamo leader in moltissimi settori, 600-700 settori come Italia, abbiamo una leadership che è globale, siamo competitivi, facciamo le Olimpiadi, cioè facciamo i mondiali, cioè andiamo, facciamo le finali. Sì, questo è interessante perché lo facciamo ancora oggi, nonostante si dica, ed effettivamente la situazione del paese è sotto gli occhi di tutti e ci sono, diciamo, la lista di problemi è molto, molto lunga, però effettivamente tu fai bene a ricordarlo, siamo ancora leader in tantissime, chiamiamole nicchie, però sono nicchie anche in alcuni casi molto, molto ricche. Anche perché il mondo sarà di nicchia, sì. Il mondo vive di community. Senti, a proposito di allora, avere una dimensione globale significa anche avere capitali che possano aiutarti in una dimensione globale. E uno dei problemi vale per le aziende tradizionali, ma ancor più per le start-up, per le nuove aziende, è quello del capitale che scarseggia. Ci sono quando commentiamo le grandi start-up della Silicon Valley, non solo, ma anche israeliane, parliamo spesso di milioni di euro, ma molti milioni di euro. In questo caso è chiaro che noi partiamo da un premio che è l'abbrivio poi per una vita, speriamo, imprenditoriale di successo, ma è importante. Quant'è il primo premio? Il primo premio sono 250.000 euro cash. Che non è banale. Però c'è qualcos'altro. Però non bastano, esatto, i 250.000 euro. In molti casi noi pensiamo di fare innovazione con 20.000 euro. Noi diciamo no, te ne diamo una cifra adeguata. Però dare semplicemente 250.000 euro al vincitore vorrebbe dire probabilmente vederlo rovinato senza andare alle Maldive dopo 6 mesi. Invece bisogna dargli tutta una tessitura, degli strumenti molto articolati che sono strumenti culturali. Perché magari una startup non ha strumenti finanziari o il capitale, ma non ha strumenti di gestione finanziaria. Dalla parte legale alla parte finanziaria, alla parte distributiva, alla parte comunicativa. Esatto. Per cui oggi il capitale come l'idea sono sì una parte consistente, ma secondo me non superano il 10% della riuscita di un progetto. Quindi qualcosa in più? Abbiamo cercato di abbinare i vincitori da una parte e metterli in relazione con i grandi sistemi imprenditoriali, per cui le giurie sono fatti da grandi imprenditori che sono strategici nel sistema paese. Per cui grandi imprenditori da una parte, ma anche tutto un reticolo molto diffuso di incubatori, acceleratori, angels, venture, per cui cerchiamo di dare la possibilità al vincitore, ma non solo, ai finalisti, quelli che hanno delle buone idee alla fine, di poter entrare in contatto e di essere finanziati. Questo è stato quello che è successo poi anche negli anni scorsi, anche chi non ha vinto, sì, ma magari era nella short list, non so, è entrato in contatto con... C'è un ragazzo che si chiama Milky Way, che lavora sulla nicchia degli sport estremi, sta a Modena, per cui ha lavorato sulla tecnologia modenese, sulla meccanica, sì, facendo una serie di accessori per il mondo bike. Adesso è diventato un piccolo brand globale, lavorando sui social e lavorando su questa nicchia, e ha ricevuto da Seedlab 750.000 euro di finanziamento. Quali sono i settori che vedi più dinamici, dove vi arrivano le idee, i progetti più interessanti o anche quantitativamente più grandi? Allora, moltissimo, poco paradossalmente il web, moltissimo invece il medicale, sì, il biotecnologico, il green. Questi sono settori ad altissima concentrazione di proposte. Magari ci si dimentica che in Italia, non so, abbiamo avuto Yux, sì, che ha rivoluzionato sicuramente commercio elettronico d'abbigliamento, esatto, con base logistica straordinaria, perché uno, sì, forse uno legge mai che adesso Yux ha il suo headquarter a Milano, ma mantiene la sua base a Bologna, perché a Bologna c'è una competenza molto forte di logistica. Esatto. E la logistica è diventato un asset fondamentale, sì, non è un problema di interfacce in molti casi. Infatti Yux infatti Federico Marchetti è uno dei giurati. Yux rappresenta questo mix dove puoi avere una straordinaria interfaccia web, una capacità di stare tecnologica, di stare nel mondo, tecnologica digitale, di comunicazione, di stare nel mondo, ma dall'altra parte ti devo consegnare in real time un pacchetto. Sì. La fusione di questi due elementi, cioè noi cerchiamo in qualche modo aziende che siano in grado di mettere in wifi o mettere della tecnologia magari ad alcuni asset che sono straordinari, che sono quelli del paese, sì, che vanno dalla logistica alla meccanica. Esatto. A tal proposito ti faccio un'altra domanda sulle idee che voi avete visto in queste 3 edizioni, compresa naturalmente questa che la prossima settimana vedrà la premiazione giovedì, giusto? Giovedì prossimo. Sono più le innovazioni tecnologiche dove c'è proprio creazione di nuova tecnologia, di brevetti nuovi, o è più spesso, cosa che forse farebbe bene al paese, un'idea che nasce combinando tecnologie che sono oramai a disposizione molto facilmente, molto anche a basso costo nel mondo? Sì, infatti tu tocchi un punto secondo me centrale. È molto difficile che la ricerca estrema si trasformi in un bene poi vendibile, perché ha bisogno di processi enormi, di grandissimi capitali. Per esempio il vincitore del secondo premio da 100.000 euro dello scorso anno si chiama Brain Control. Lui utilizza una tecnica di controllo mentale con la quale tu puoi controllare col pensiero tecnicamente i droni, banalmente perché c'è dell'energia nel pensiero, e la applica per esempio ai malati vegetativi, persone con le quali tu non puoi dialogare. Attacca dei sensori al cervello, magari tu stai parlando con tuo padre, non hai mai parlato con tuo padre negli ultimi 7 anni perché stai in uno stato vegetativo, e colui con una tecnologia già consumer tecnicamente trasforma quella tecnologia nella possibilità di dialogo, perché tu parli con una persona che è in stato vegetale e lui ti risponde sì, no, e vedi che si accendono le due aree, una delle due aree dell'iPad. Oppure Solwa, che è noi con 250.000 euro gli abbiamo permesso di arrivare sul mercato con un'idea che era già testata, che è una serra che permette di desalinizzare l'acqua, di depurare l'acqua, senza però i problemi dei filtri, che era quello il problema che c'era maggiore, sì, nelle serre desalinizzanti. Con 250.000 euro, delle specie di piccoli cassoni, low budget, low cost, dove assembla sostanzialmente tecnologia, però ha lavorato sul processo osmotico, ma con, diciamo, tecnologie, sistemi già presenti sul mercato, li ha assemblate e ha trovato un brevetto innovativo, molto spesso nella funzione e nella modalità con cui, sì, viene usata la tecnologia. Sono solo italiani? Cioè, diciamo, le idee devono essere tutte di persone italiane o anche che arrivano da altre parti d'Europa? No, l'idea di visto che il premio non è enorme, non è gigantesco, è un premio importante, cioè, è un bel premio, però è importante, secondo me, concentrarlo, sì, sulla creazione di nuove imprese in Italia o aiutare i sistemi, oppure dare quel boost che ti permette poi di trovare una tua via. Senti, ci sono state anche delle idee particolarmente interessanti in settori molto tradizionali? Che ne so, visto che parliamo di premio Marzotto, che ne so, nel mondo dell'abbigliamento, del design. Ecco, lì per esempio nel mondo dell'abbigliamento e del design abbiamo avuto la categoria, sono entrati molti della categoria mitomani. Per cui entrano, sì, i presunti artisti, i presunti creatori, per cui è molto difficile lavorare, sì, in realtà sul... Sì, è molto difficile anche valutare. Molto difficile valutare, perché ci sono altri codici, e generalmente è anche molto difficile per un venture capitalist capire o giudicare, o per un advisor capire o giudicare una progettualità che ha moltissimo di immateriale. Molto bene, Cristiano, grazie per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo, non possiamo dire nulla su i vincitori, quanti sono i vincitori? 1, 2, 3, 5? No, alla fine premiamo mi pare 25 persone. Insomma. Ecco, una piccola nota, non abbiamo deciso di chiamare la serata finale non premio Gaetano Marzotto, sì, serata finale, ma banda larga. È vero. Perché abbiamo deciso di fare una specie di orchestra dell'innovazione italiana, dicendo che forse in Italia manca la banda larga. Con questo messaggio ti ringrazio per averlo ribadito, perché è uno dei messaggi che anche durante la trasmissione lanciamo spesso. Noi ti auguriamo una buona serata e naturalmente in bocca al lupo per il premio. Grazie a voi, gentilissimi. E noi chiudiamo questa puntata di 2024 con uno sguardo su Nova, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, in edicola la domenica all'interno del Sole 24 Ore, guidato da Luca De Biase. Ciao Luca, bentornato a 2024. Ciao a tutti. A cosa è dedicata la copertina di domani? Ma domani l'apertura è un pezzo di Carlo Rizzuto, che è il leader del sincrotrone a Trieste, una delle macchine per la sperimentazione con la luce più importanti del mondo, e lui ci parla di una storia che si svela sotto i nostri occhi offuscati dal pregiudizio. Il pregiudizio è in Italia non si può fare scienza, i ricercatori vanno all'estero, non c'è speranza per l'Italia, e di fronte a questo noi diciamo che siamo un paese perduto, perché l'economia della conoscenza ha bisogno di scienza, ha bisogno di ricerca, ha bisogno di gente di talento. Lui ci racconta una storia che sta succedendo realmente in Italia, della quale non ci accorgiamo: il fatto che il paese attrae ricercatori da tutto il mondo perché sta attraverso alcuni dei suoi centri trovando la chiave per valorizzare quello che sa fare meglio. Al sincrotrone ci sono 3.000 ricercatori che arrivano da tutto il mondo a lavorare perché è un posto dove si lavora bene. La ricerca è una ricerca che è basata su un grande sistema di network con altri centri di ricerca, viene finanziata in gran parte con denaro europeo e parte da un presupposto: il punto centrale che attrae i grandi talenti ricercatori nei luoghi della scienza non è lo stipendio, ma è la qualità dell'ambiente di lavoro, la qualità del laboratorio e delle macchine che sono messe a disposizione dei ricercatori. Il sincrotrone è uno dei luoghi eccellenti nel mondo per un certo tipo di esperimenti. A questo punto nel mondo dei ricercatori sta cambiando l'immagine dell'idea di venire a lavorare in Italia. Pensiamo anche all'IIT, che a sua volta attrae una metà dei suoi 1000 e oltre ricercatori dall'estero a Genova, e cominciamo a vedere che sotto la patina di pessimismo che in parte è molto realistica, in realtà sta succedendo qualcosa che ci prepara un futuro nel quale anche l'Italia ha un posto da protagonista. E allora grazie Luca e buon lavoro, a presto. Grazie a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024, versione podcast più lunga con interviste integrali. Avete la possibilità, laddove l'intervista dopo qualche minuto magari non vi piace tantissimo, di andare avanti, di fare skip, di procedere. Certo, ci sono ascoltatori che ci dicono: ma perché non dividete in capitoli? Bisogna fare una lavorazione che attualmente non riusciamo a fare per essenzialmente ragioni di tempo, di omogeneità, di insomma mille fattori, ma insomma riteniamo di offrire gratuitamente un buon prodotto rispetto a quello che va in onda normalmente, rispetto anche agli altri programmi di Radio 24. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per tutto quello che ci scrivete, sempre e molto spesso delle parole, delle belle parole, ma ci sono anche quelli che ci tirano le orecchie e giustamente questo fa bene per la crescita del programma. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, potete scriverci anche via Facebook o anche via Twitter, ma preferiamo la posta elettronica. Le mettiamo tutte in ordine, abbiamo un controllo della situazione molto più preciso, ma molti poi non ci ascoltano, quindi amen. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, in onda su Radio 24 a partire dalle 15, oppure la domenica sera dopo il GR delle 23. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024.